Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un saluto da Maurizio Melis. C'è stato un tempo in cui la massima preoccupazione in fatto di sicurezza informatica era che un buon tempone, un qualche cavaliere solitario convinto di essere in lotta contro le forze del male, ti rifilasse uno di quei virus in grado di cancellarti l'hard disk. Lo spauracchio consisteva quindi nel rischio di perdere i dati. Ebbene, questa idea è ancora oggi molto diffusa, mentre invece le minacce sono cambiate radicalmente, sia per quanto riguarda le modalità di attacco, sia per quanto riguarda gli scopi. È un tema complesso di cui cercheremo di capire almeno gli aspetti fondamentali in due puntate, stasera e domani sera, con l'aiuto di Stefano Lamonato, esperto di sicurezza di FireEye, multinazionale americana che appunto si occupa di sicurezza informatica. Buonasera Lamonato. Buonasera Maurizio. Allora, dicevo di questo hard disk cancellato che era il massimo spauracchio di una volta. Ecco, oggi invece quali sono gli obiettivi tipici degli attacchi informatici? Che scopo hanno? Gli attacchi informatici sono sicuramente cambiati e lo vediamo tutti i giorni dalle news che ormai le brecce informatiche sono inevitabili. Il cambio di obiettivo da parte di un attaccante è soprattutto legato al tipo di finalità che farà con quelle che sono le informazioni sottratte. Si cerca di sottrarre dati, brevetti, informazioni intellectual properties, informazioni aziendali, dalle quali l'attaccante può trarne vantaggi del più disperati. Vantaggi competitivi possono essere ad esempio i casi di tutti gli attacchi cyberattack che Cina e USA si sono scambiati negli ultimi anni, piuttosto che attacchi che magari sono legati a cercare di portare via dei segreti industriali o informazioni di intelligence, avanzamento militare, informazioni industriali per avanzare economicamente rispetto ad altre nazioni. Abbiamo distruzione di business, abbiamo visto attacchi come quello di TV 5 Monde che ha portato il blocco per 18 ore delle trasmissioni radiofoniche e televisive in broadcasting di questa emittente. Abbiamo anche trovato sistemi che cercavano di rovinare la reputazione di un'azienda. Pizza Hut in Francia e in Belgio ha subito il furto di circa 600.000 dati utenti con l'obiettivo di chiederne un riscatto di 30.000 euro per non divulgare queste informazioni. Che poi ecco, non erano, questo è interessante, non erano informazioni sensibili perché era il tipo di pizza preferita dai vari utenti. Di per sé non è un grave danno per l'utente, ma è un grave danno per Pizza Hut, che vuol dire che non era in grado di mantenere la segretezza di queste informazioni. Esatto. È lì che si colpiva. Esatto, perché poi alla fine l'utente dice: ma se non sono riusciti a proteggere il topping che voglio, la finitura che voglio sulla pizza, come sono in grado di proteggere le altre informazioni? C'è da aggiungere che comunque la finalità preferita di tutto quello che è il mondo del cybercrime rimangono i dati finanziari, quindi carte di credito, quindi cercare di sottrarre il maggior numero di dati legati alle carte di credito per rivenderle o ripiazzarle in un mercato nero. Consideriamo Target, la società che ha perso più carte di credito al mondo, ha perso 40 milioni di carte di credito però, in un solo hacking. E questo è potenza di informatica, veramente. Ecco, anche per quanto riguarda le tecniche, non solo gli scopi, ma le tecniche di attacco, molto è cambiato. Assolutamente sì, siamo passati da attacchi che erano, come giustamente dicevi tu, distruttivi ad attacchi silenti. Abbiamo identificato attaccanti che erano capaci di nascondersi all'interno delle reti aziendali per più di 2.980 giorni, sono circa 8 anni di presenza indisturbata senza che nessun sistema facesse scattare un allarme. Il tempo medio in caso di questi attacchi che vengono detti APT, cioè Advanced Persistent Threat, quindi continui e persistenti, avanzati, è addirittura la media di 200 giorni, è vero? Sì, sono 205 giorni di mediana, quindi si escludono i casi fortunati in cui si beccano subito, ma si escludono anche i casi in cui appunto ci vogliono 8 anni per identificarlo. Ecco, quindi, descriviamo un po' la tipica sequenza di azioni di un attacco di questo genere. Ma un attacco di tipo APT, che come giustamente hai detto tu, si tratta di Advanced Persistent Threat, quindi gruppi organizzati e motivati di persone che hanno come scopo e finalità l'attacco di un'azienda specifica o di un'organizzazione governativa specifica, si tratta di gruppi che sviluppano delle metodologie proprie di attacco, sono in grado di lavorare 24 ore al giorno, sono organizzati, hanno gruppi che si dedicano a ricerca e sviluppo, altri che fanno gli operatori, altri ancora che fanno i processi di controllo controllo qualità, e all'interno di tutte queste metodologie che loro creano sicuramente cercano in qualche modo di ottenere uno sfondamento iniziale, un attacco che permetta loro di entrare inizialmente in azienda. Da questo punto di vista quello che noi notiamo è che molte volte viene utilizzato un malware che però serve solo a fare il primo ingresso, perché una volta che loro riescono ad ottenere username e password valide di un utente, a quel punto cercano di collegarsi con le sue credenziali, diventando assolutamente invisibili all'interno della fanno azienda. Sparire il malware, perché quello è un segno che tu sei stato attaccato, e meglio se possibile addirittura rimuoverlo, e a quel punto l'attaccante opera con uno dei membri di questo sistema. E a questo per il momento ci fermiamo qui, abbiamo capito come cambiano gli attacchi, domani sera cercheremo di capire come può cambiare invece la difesa. Buona serata.